Yo, sì, sì, sì. Che cos'è 74? Da Crotone, una città fatta di morti viventi. Questi sono racconti dell'orrore a cui non riesci a credere. Tremo dalla paura. 8, 8, 16, 18. La tua cazzo di vita rinchiusa in un fagotto, in un fazzoletto, trovato sotto al letto, anche sporco di sangue a quanto mi hanno detto. È un incubo che non vuole terminare, è una nuova vita che non vuole sbocciare, è qualcosa di strano che mi vuole catturare, è la mia stessa vita che non mi vuole torturare. E allora è la tua vita che inizia a cambiare, quando per noi anche tu ti inizi a bucare, inizi anche a fumare perché non sai che fare, arriverà il punto che inizierai a preparare crack, cocaina, tutti da cucinare, ti daranno acqua in un pentolino da scaldare, in pochi minuti tu vedrai cristallizzare la tua roba bella e pronta da mangiare. Ingoia, figlio di puttana, vuoi ingoiare? Non farla perdere perché ormai l'hai fatta scaldare. E poi su quel divano ti potrai sdraiare per incominciare a sballare e anche a pensare a chissà come avresti potuto impiegare il tuo tempo, la giornata e le cose da fare. Ma quando ti rialzi non riesci a capire neppure come cazzo hai fatto ad andare a dormire. La differenza è tanta, la dipendenza pure, e poi sei anche convinto che non ci siano cure. La tua testa è invasa da mille paure, che non vuoi finire in quei centri per le cure. E allora ci sono poche cose da fare, metti un po' di soldi da parte così potrai comprare una pistola per poterti sparare, triti con la testa di cazzo quando non sai che fare. Yo, yo. E questa cos'era? Un'altra vita da buttare, un altro genitore che piange perché il figlio muore e si dispera quando viene a sapere le cause del decesso e che lo fanno vedere il figlio steso in terra in una triste memoria. Che cosa sono quattro racconti dell'orrore a cui non riesci a credere per davvero? In memoria siamo nati qui e qui moriamo, le storie di questo mondo non le sappiamo, le conosciamo e altrimenti le impariamo. Yo, yo, 1964.